peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni e Salt Peanuts. Oggi diciamo che sono protagonisti due musicisti, uno più giovane, l'altro ormai già diciamo ben celebrato, e tutte e due fanno parte della scuderia della Blue Note, etichetta storica e molto titolata del jazz. Si tratta di Ethan Iverson, pianista, e di Joel Ross, vibrafonista. Il più anziano, appunto, Ethan Iverson, ha ormai alle sue spalle quasi una trentina d'anni di attività nella quale ha avuto ogni tipo di soddisfazione, soprattutto nell'ambito di un trio, un piano trio, Bad Plus, che sicuramente hanno cambiato la storia del piano trio nella visione del jazz. Era un trio che godeva della intelligenza musicale di tre personaggi con personalità diverse e che contribuivano tutti e tre alla creazione di questo sound. Indubbiamente ecco un aspetto che si può dire che possiamo che condivide Iverson con Joel Ross è una predilezione per la parte più melodica della costruzione dei propri brani. Ha una sua, diciamo, Iverson ha una sua cifra di struttura piuttosto riconoscibile. Direi che più o meno i brani di Iverson godono di questa qualità abbastanza riconoscibile, e soprattutto poi quando si ascoltano anche le declinazioni che ne fa col pianoforte, direi che è piuttosto personale, ha una personalità piuttosto forte. E partendo però da un capitolo, sono tutti e due protagonisti di una pubblicazione fatta nelle ultime settimane, due pubblicazioni entrambe del 24, quindi del 2024. E però comincio con un altro musicista che voglio sottolineare, perché è un personaggio interessante che sta emergendo come uno dei batteristi più bravi, più interessanti, anche più richiesti in questo momento. Evidentemente il suo sound si trova ad incrociare le esigenze di altri gruppi che lo ritengono interessante come sideman soprattutto. Nonostante abbia già un'età ragguardevole, l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, è uscito il suo primo disco come leader per un'etichetta ben titolata, etichetta Fresh and Sound New Talent. Quindi un'etichetta che ha al suo attivo molte pubblicazioni che hanno lanciato anche sulla scena americana i personaggi importanti, giovani talenti emergenti più interessanti. E direi che è abbastanza tardiva vista l'età, però è uscito questo disco che ha avuto un'ottima apprezzamento da parte della critica. Disco intitolato Saturday, dove si vede un trio, dove Vinny Sperrazza, che naturalmente non fa altro che nonostante sia un figlio di Brooklyn proprio, sicuramente è di provenienza italiana, e è accompagnato appunto al contrabbasso da Michael Formanek e del pianoforte di Ethan Iverson, appunto. L'ho scelto non soltanto per la presenza di Iverson al pianoforte, ma anche perché attualmente Iverson utilizza questo batterista in diverse occasioni nelle formazioni nuove, formazioni in trio soprattutto. Ascoltiamo due brani presi da questo Saturday. Thank you. era il trio, piano trio, guidato in questo caso da Vinnie Sperrazza alla batteria, da Ethan Iverson al pianoforte e Michael Fornanek al contrabbasso. Un trio notevole. E Iverson appunto riesce comunque a dare questa cifra di lettura che è coerente, diciamo, con la sua personalità anche in questo caso. L'ultimo disco uscito nelle ultime settimane per l'etichetta Blue Note è appunto intitolato Technically Acceptable ed sono sempre in formazione di piano trio, sono due però, una con Thomas Morgan al basso e Cash Abdi alla batteria e l'altra con Simon Wilson al basso e Vinnie Sperrazza, appunto, ancora una volta lo sentiamo, alla batteria. E diciamo che cerca anche di cambiare, di modificare il proprio assetto creativo Ethan Iverson, però rimane fortemente ancorato alla sua personalità e a mantenere il suo linguaggio come l'abbiamo sempre conosciuto con i Bad Plus. Ascoltiamo quattro composizioni abbastanza brevi, e tutte firmate naturalmente da Ethan Iverson. Thank you. Questo era l'ultimo disco di Ethan Iverson, uscito per la Blue Note, intitolato Technically Acceptable, disco che è stato salutato con molto favore dalla critica. Indubbiamente ha notevoli qualità, anche una, come dire, una costruzione, un'attenzione, una cura nelle scelte anche dei brani, quindi, però non è che, che possa dimostrare niente di nuovo. Indubbiamente si vede che Iverson ormai è approdato su uno stile suo, che riesce a mantenere sempre con dei livelli di alta qualità, però non può mai sorprendere. Un altro personaggio, in questo caso giovane, molto giovane, e che ha avuto già una, nonostante la giovanissima età, deve avere 24 anni adesso, è stato ormai, come dire, gratificato di molta attenzione da parte della critica, ma anche del pubblico, perché indubbiamente è, devo dire che anch'io lo ritengo veramente un personaggio la cui presenza è garanzia anche di alto livello musicale. Joel Ross, vibrafonista dell'ambito dell'ambiente più chicagoano, e che però appunto riesce ad avere, contrariamente un po' alla maggior parte dei musicisti di quell'area, ad avere una certa predilezione per l'aspetto più strutturato, più lirico nella costruzione dei suoi brani, e anche poi negli assoli, quando lavora come sideman in formazioni diverse. Tra l'altro questo gli accade anche con una certa frequenza. E, è uscito questo nuovo lavoro intitolato Nubbles, appunto sempre, come dicevo, della Blue Note, in quintetto con Emmanuel Wilkins, sicuramente un sax contralto magnifico, e Jeremy Curran al pianoforte, Kenoa Mendahal al basso, Jeremy Dutton alla batteria, e poi si aggiunge in alcuni casi al flauto Gabriel Garo. Quindi una scelta timbrica anche piuttosto contenuta, diciamo, solo con la presenza di Wilkins al contralto, ed è molto, molto, ovviamente molto forte anche la timbrica del vibrafono come connotazione stilistica. E, ascoltiamo due brani, tutte e due composti dallo stesso Joel Ross, che danno un po' la cifra della sua, come dire, volontà stilistica. E la costruzione di questi brani sono sempre con più centri, non esiste un tema soltanto, esistono più situazioni che poi si modificano e iniziano in un modo e finiscono in un altro. Questo diciamo che è abbastanza frequente nelle sue scelte. Ascoltiamo questo bel disco intitolato Nubbles di Joel Ross. Thank you. Questo era il nuovo disco di Joel Ross, uscito per la Blue Note, Nubbles, e ottimo disco, direi che il risultato viene confermato, queste qualità del giovane Joel Ross sono confermate anche da questa nuova pubblicazione. Era l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.